quando saremo fora, fora della settimana. Sarà arrivato il venerdì, perché saremo fuori dalla settimana. E oggi? Invece oggi è mercoledì. Appunto. Quindi ragazzi, siamo tristi come gli alpini. Tito, è per forza. Gli alpini venerdì devono si ubriacano, però sono anche molto tristi. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. E un saluto anche da Laura Faggini. Ecco, che è venuta con noi, quindi là non si può fare perché c'è il contratto. Che dopo viene la l'Empire. Guardia di finanza. E un saluto anche da Laura Faggini. No, di un nome finto. E un saluto anche da Isabella Manzini. Bene, oggi è la giornata di Federica Manzini. Sì, oggi non è la mia giornata invece. Perché cos'hai? Niente, io ero passato tutto il giorno in un famosissimo mobilificio svedese. Beh, è bello, dai. Guarda, proprio una di quelle giornate. Il famosissimo mobilificio svedese, bellissimo. Sì. Sì, io ci vado anche se non vado a comprare niente, vado a cena lì. Tu sei un masochista proprio. Ci sono gli addoghini piccoli. Ho capito. Le aringhe. È proprio per quello che va la gente, oltre che per i mobili. Io ci vado perché è come visitare un'esposizione di arte neo Bauhaus gratis, capito? Per non parlare appunto dei würstelini e delle polpettine. Ma vedi, se hai la tessera famosissimo mobilificio svedese Family, poi spendi pochissimo. Com'è che si chiama la tessera? Si chiama tessera famosissimo mobilificio svedese Family. Faccio lungo, un po' fatica a dirlo, come nome, sì, è lungo. Ma fatto sta che io la schiena rotta per aver portato il divano nuovo su per le scale, come se non bastasse l'ho pure dovuto montare, quindi. Ma qual era? Un Karl Marxstadt o un Robespierre Berg? Ma che ne so, un divano di quelli, sai, chaise longue per metà. Allora era un Kierkegaard, però non potrebbe essere anche un ma chi se ne frega, comunque ci ho messo 4 ore a montarlo. Beh, è bello, no? È come giocare con Lego, Drago, coi Lego. Coi Lego o con Lego? Con Lego. Con Lego. Perché ti senti grande, perché ti senti un bambino, però usi le viti, quindi sono robe da più grandi, le brugoline. Quindi senti un bambino che si sente grande, in realtà sei un adulto. Alla che fine, guarda, non ne abbiamo mai parlato, ma giocare coi mobili del famosissimo mobilificio svedese. Sì. Con la Family Card è un'attività molto da Chiedo Asilo. Molto Chiedo Asilo, senza dubbio, però con te non c'è soddisfazione a lamentarsi. Io sono fan. Sei un fan, voglio dire. Sono fan del famosissimo mobilificio svedese. Andrò a esprimere la mia sofferenza a qualcun altro, che ne so, a Suor Dentona o a Pietro Lacorte, uno dei due indifferenti. Si assomigliano anche un po', Suor Dentona. Ma come vuoi. Comunque, la prossima volta che vai al famosissimo mobilificio svedese, portami un po' di aringhe. Da montare? Sì, con le brugole. State ascoltando un programma offerto da Wunderwaffer. Juhu, Mutter, bin zurück. Was lachst du, blöde Sau? Dein Scheisskörper hat aufs Sofa geschissen. Soll ich auch wissen, dass das der Hund war? Ist es wieder du gewesen? Und jetzt schiebst du es ab auf den Waldi? Dann probier's doch und sag mir Bescheid. Na, wieso nicht? Immer noch besser als deine Trüffelschokolade, die du machst. Wunderwaffer è a base di segale cornuta e finocchi cotti. Può avere effetti indesiderati anche gravi, come la trasformazione di un soggetto sano in un adepto di comunione e liberazione. L'ingestione di una quantità eccessiva di prodotto può causare comportamenti che possono essere fonte di pentimento. Wunderwaffer può indurre egocentrismo, delirio di onnipotenza e crisi di identità. Le statistiche mostrano che numerosi transgender dichiarano di aver assunto quotidianamente Wunderwaffer per un lungo periodo. Non è stata però scientificamente dimostrata la connessione tra l'assunzione del prodotto e il desiderio di cambiare sesso. È sconsigliata la fruizione del prodotto ad un pubblico adulto. Non somministrare a bambini. L'ingestione di Wunderwaffer è dannosa per le donne in gravidanza e per un pubblico biondo. Le allucinazioni sporadicamente causate dall'assunzione del prodotto possono rendere l'individuo interessato stato preda di facile entusiasmo. Pertanto, i matrimoni contratti dopo ingestione di Wunderwaffer non sono riconosciuti dalla legge. E ora, bambini, ricreazione! Cosa c'è? Cosa borbotti, bambino Alberto? Voi dove? Cosa fate qui? No. Allora, no, è la questa ricreazione. È zona off-limits, Qui è zona della banda. Ma quale banda? E poi come sei aggressivo? Cosa ti è successo? Sì, veramente, sta diventando sempre più difficile avere a che fare con lui. Ma perché Alberto, è difficile? Ma non è difficile, perché sei... Basta rispettare il codice non detto, quello della, della malavita, no? Ma vabbè. È tutto fila liscio. Basta intendersi, no? Ma la malavita, ma meno Alberto. Ma sì, la malavita, la criminalità, la leggera, no? Come si dice in milanese arcaico. Sì. La leggera. E poi, non chiamarmi Alberto, al mai più, perché io sono il freddo. Ah, il freddo. Quindi dobbiamo chiamarti freddo o il freddo? No, il freddo. Ah, il freddo. Come il ciampo. Il shampoo. Ah, ho capito, ce l'ha allora, il freddo. Tipo, ma anche il freddo, allora come va? O freddo, allora come va? Eh no, lì dipende da cosa, cosa si intende. Vabbè, vedi, allora già non hai le idee chiare. Io comunque faccio fatica a stare dietro i deliri di questo bambino. Comunque la mala vita è interessante, dai, spiega bene, dai. Cos'è che c'è? No, non state lì a parlare fra di voi. Allora, sono appena andate al bar, ma che facciamo prima? Io tanto ho un appuntamento, sto aspettando il sorcio. Dobbiamo fare un appostamento per studiare abitudini della nostra prossima vittima, no? Un rapimento. Un rapimento. Ci mancava il pure il freddo, li ho già sentiti, sì, io però. Sì, infatti. Il sorcio. Il sorcio è un componente della banda. Subalterno. Subalterno. Che certo. Poi sarebbe Gildo, no? In realtà. Che sta roba resti fra noi, Ma senti, hai visto Romanzo Criminale? Il film, la fiction, la fiction. Insomma, qualcosa. Okay. Cioè, il freddo e il sorcio si sono già sentiti lì. C'è qualcosa che non va. No, stai calma, solo per capire qual è la tua fonte di ispirazione. No? Gli altri componenti chi sono? Ma gli altri chi? Ma siamo solo in due? Siamo io e il sorcio per adesso. Ah, vabbè, ma però fra poco presumo saremo in tre, no? È perché Ioris entrerà sicuramente a far parte della banda, no? Ioris, certo, lui sarà il libanese. No, lui. Il bufalo. Ah, il bufalo. Bufalo, sì, istintivo. Beh, Ioris sta bene. Una banda così penso che ci stia. E cosa fate? Completo, minimo di batteria. La batteria si chiama in tre. Sì. E cominciamo ad operare. Ecco, e cosa fate? Cosa hai in mente qualcosa? Di preciso no, però dipende anche dall'occasione che si presentano, no? Tipo rapina in messa, spaccio di merendine, rapimenti, strozzinaggio, che quello rende. Ma spaccio di roba da fare ce n'è. Vabbè, il risultato di ore passate davanti alla TV, no? In orari proibiti per i bambini della sua età, vedi cosa vuol succede? Dire? Ma Drago, tu da piccolo non giocavi a Indiani Cowboy, a Guardie Ladri? No, io facevo collezione di figurine, imparavo a memoria l'almanacco del calcio illustrato. Lo sappiamo, infanzia problematica, con i calciatori dell'est. No, proprio a te ti farebbe bene entrare nella banda, ti darebbe una bella svegliata. Ha ragione, è un'idea, sì, dai, entriamo nella banda anche noi due. Ma che idea è? Ma va bene essere in sintonia con i bambini, però fino a questo punto... facciamo così, allora. Cappa, tu che hai i capelli così ricci da medio orientale, tu potresti essere il libanese, no? Libanese, sì, libanese. Non lo fai io. E Drago il dandy. Il dandy, io, ma sembra così. Un dandy. Io. No, il dandy, ma il dandy. Dandy, il dandy. C'è la batteria, cinque sono la batteria. La batteria. Quindi ogni settimana sembrano il re dell'asilo. Cioè, vi rendete conto? Voi due, non sarete dei cervelli fini, però siete grandi e grossi, voi potreste occuparvi dei lavori di manovalanza, no? Attenzione che arrivano quei due lì, che paura. I bambini, fin lì. Due bracci sareste, no? Due bracci. Ma cosa ridi? Poi, due bracci, Drago, come scusa. Voi sareste... Drago, io non proviamo, sono tanto convinto, ma non c'è niente da perdere, non facciamo qualcosa di diverso. La faccia non la perdiamo. Ma no, scusate, avete solo da guadagnarci. Allora, voi dovete solo pensare a proteggermi, perché per un freddo come me, che si chiama anche il freddo, quindi, no? Il freddo, che è anche un freddo, no? Freddo. Deve pianificare le attività della banda, no? Quindi la tranquillità e l'incolumità fisica sono fondamentali, no? Sì, certo. Il cervello deve stare al riparo. Ma scusa, gli altri due lì, il sorcio e loro invece non dobbiamo proteggerli, solo te. Il bufalo! Vabbè, del sorcio e il bufalo mi occupo io. Gildo e Ioris. Tu proteggi loro due. Il sorcio ha tutte le caratteristiche per essere un perfetto basista. Cioè, Gildo. Spionaggio, raccolta informazioni, perché lui è insospettabile, no? È inesistente. No, insospettabile, ho detto. Vabbè. Per Ioris, il bufalo, io in mente qualcos'altro, perché lui, vista la sua provenienza, la sua indole così calda, lui sarà utilissimo nei rapporti con le altre bande, no? Pierre. Perché lui, Pierre, sì, ma lui è abituato a avere che fare con un certo tipo di gente, no? Gente dura che poi parla lo stesso gergo, no? Capito? Poi è scaltro. Ma quindi il capo sei tu, cioè che lui... È il capo, non si chiama più così, diciamo che sono la mente, no? La mente. Se per voi non c'è problema, il capo sarei io, no? Cioè voi due... Voi siete anche gli ultimi, siete entrati dopo, no? Il fondatore della banda, no? Sono io, quindi voi due, i due bracci, no? Così, però si fa la stecca para, no? Questo no, è il linguaggio della mano. Vabbè, allora senti, fai canta le canzoni di Milva. Quindi stecca para non facciamo niente. No, allora. No, stecca para vuol che dire che parlate? Nonostante ci sia un capo e dei bracci, il bottino si fa più o meno si fa tutti uguali. No, più o meno. Ci sono quelle variazioni che dipende anche da salvo riserve. Però è un discorso delle soldi che vedremo in un secondo momento. No, è fondamentale vederlo subito. Perché facciamo la stecca para. Facciamo la stecca para, perché la base della banda della Magliana era la stecca para. Poi dopo ognuno dei componenti dà un quibus al capo, perché alla mente. Cos'è? Perché sicuramente il culto della personalità, cioè, un quibus, no, ma no, un fi così si dice figa. Cosa hai detto? Figla. Figa. Fi nel senso di fi nel senso di amore, cioè fi